Questo è essere chiesa, essere famiglia. Io voglio parlare di chiesa e lo voglio fare leggendo da Romani 12 questi versi che tanti di noi conoscono molto bene, ma io credo che il capitolo 12 sia una lettura quotidiana da fare e da rifare per orientare le nostre vite nel piano che Dio ha stabilito per noi come individui, ma come parte della sua famiglia. E leggo dal verso 3, l'apostolo Paolo ai Romani 12 versetto 3 dice: per la grazia che mi è stata concessa, per la grazia che mi è stata concessa. E sta parlando del suo ruolo di apostolo, di pastore nelle chiese, di guida spirituale, di insegnante, di fondatore, di pioniere. Per la grazia che mi è stata concessa, è una grazia poter servire il Signore. In ogni misura è una grazia poter servire il Signore. E lui dice: per la grazia che mi è stata concessa, ora vi riprendo. Questo sta per dire, no? Per la grazia che mi è stata, dal ruolo e dalla posizione in cui mi trovo, vi riprendo, vi aiuto, vi esorto. E dice questo: dico quindi a ciascuno di voi, ciascuno di voi. Quindi questo è un messaggio per ciascuno di noi, che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere. Modestia. Non abbia un concetto più alto di sé, di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno, poiché, come in un solo corpo, abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi Chiesa, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede; se di ministero, attendiamo al ministero; se di insegnamento, all'insegnare; se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. L'amore sia senza ipocrisia. L'amore sia senza ipocrisia. Abborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono, abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili, non vi stimate saggi da voi stessi. Amen. Non vi stimate saggi da voi stessi. Sobrietà, umiltà, amore, servizio, reciprocità. Questa è Chiesa e io vorrei che noi afferrassimo il concetto di Chiesa, perché la Chiesa, lo sappiamo, non è un'istituzione, non è una gerarchia, sappiamo che la Chiesa non è un edificio, sappiamo che la Chiesa non è un seguire dottrine di uomini, non è seguire uomini, ma è seguire Cristo. Il centro della Chiesa è Cristo, Lui è la pietra angolare, Lui è il sommo pastore, amen. Lui è il padre della famiglia, Lui è il capo del corpo e noi siamo corpo, membra gli uni degli altri. Amen. Questa è Chiesa, e afferrare il concetto Chiesa è fondamentale, soprattutto per la nostra indole, per la nostra inclinazione carnale a entrare nella religiosità, entrare in degli schemi che non si allineano alla parola di Dio. Io vorrei prima di tutto parlare del fatto che è così fondamentale essere parte della Chiesa. Se sei nato di nuovo, devi far parte della Chiesa, perché Dio ha stabilito che come identità, come nato di nuovo, entri a far parte della sua famiglia ed entri a far parte della Chiesa e di una comunità locale. Locale. Ci sono troppe persone che screditano la Chiesa locale. troppe persone che impugnano addirittura la Bibbia e citano versi per screditare la comunità locale, non si rendono conto che stanno citando versi che attingono da lettere indirizzate a comunità locale. Quelle che abbiamo appena letto è una comunità locale alla quale l'Apostolo Paolo si sta riferendo. Sì, si sta riferendo alla Chiesa universale. Sì, si sta riferendo alla Chiesa di tutti i tempi, da 2000 anni a questa parte. Ma nello specifico sta scrivendo ai Romani, è per questo che si chiama Romani la lettera, o Filippesi, o Corinti, perché erano indirizzi di chiese locali, perché Dio ha stabilito che nella nuova nascita noi entriamo a far parte della Chiesa, della famiglia universale, però che è presente localmente ed è fatta di nome, di facce e di persone con le quali siamo chiamati a vincolarci quale membra gli uni degli altri. Gli uni degli altri. Gli uni degli altri. C'è questo termine che voi sapete che io amo, è un termine che si trova ben 113 volte, se non sbaglio, nella parola di Dio, nel Nuovo Testamento nello specifico, 113 volte in 94 versi diversi, ed è un avverbio, e il titolo del mio messaggio è Chiesa in una sola parola, Chiesa in una parola. Che cos'è Chiesa in una parola? Chiesa in una parola è per me alelon, questa parola greca che in italiano viene tradotta proprio gli uni nei confronti degli altri, o reciprocamente, o a vicenda, o tra di voi. Non è tradotta sempre solo con una parola italiana, ma è sempre solo una parola greca, alelon, ed è un avverbio che definisce quello che noi facciamo e quello che noi siamo. Come Chiesa, l'azione della Chiesa è pregare, pregare sì, ma tutte le esortazioni che noi troviamo riferite alla Chiesa sulla preghiera è pregate gli uni per gli altri. Vedete l'elenco che c'è, è infinito, io ho fatto una lista e ho riempito tre pagine intere di versi biblici che hanno questa parolina, alelon, e esorta all'affetto reciproco, all'onore reciproco, non so se c'è la tabella, all'amore reciproco, al perdono reciproco, all'accoglienza reciproca, se non c'è la tabella seguite me, al conforto reciproco, all'onore reciproco, all'edificazione reciproca, all'istruzione reciproca, alla correzione reciproca, all'aspettare, all'aspettarci reciprocamente, al servire reciprocamente, al supportare reciprocamente, al sottometterci reciprocamente, a portare i pesi gli uni degli altri reciprocamente, a fare attenzione gli uni agli altri, a confessare i peccati gli uni agli altri, a salutare gli uni gli altri. A salutare gli uni gli altri. Mio padre, il pastore, fondatore di questa chiesa, ha stressato questo concetto. Ci siamo consumati le guance, abbiamo salutato persone e lo so, non c'era il Covid e tutte queste teorie, quindi c'era più libertà di farlo, però papà ci ha insegnato ad abbracciarci, ad accoglierci con un santo bacio, ma non era il suo insegnamento, è un insegnamento biblico e sapete, non è ripetuto una sola volta, ci sono più versi che invitano a salutarci gli uni gli altri, a baciarci gli uni gli altri. Perché? Perché siamo famiglia, perché ci apparteniamo, perché dobbiamo esprimere affetto gli uni nei confronti degli altri, e poi ancora pregare gli uni per gli altri, ospitare gli uni gli altri, stimare gli uni gli altri. E questa è solo una parte dell'elenco, però io voglio stressare questo concetto, gli uni nei confronti degli altri. L'appartenenza alla Chiesa deve spogliarsi, deve liberarsi del concetto che la Chiesa è una parentesi domenicale. Amen, amen. La Chiesa non è la parentesi domenicale, non è quello che noi viviamo, non è solamente quello che noi viviamo, dalle 10:30 alle 12, Dio volendo, oggi, mezzogiorno, perché il mio messaggio è bello lungo, quindi forse all'1, alle 2, siete con me, c'è chi è con me. Ma vedete, a volte noi facciamo l'errore proprio di confinare la Chiesa ai programmi. Rompiamo questa idea, questa non è Chiesa, questo non è il concetto che Dio ha stabilito nel nostro appartenerci, ma tutto questo elenco è la reciprocità, lo scambio, il vedere l'un l'altro, il cercare l'un l'altro, il riconoscere l'un l'altro, questo è fare Chiesa è vivere di relazioni e Dio ha stabilito che tu abbia delle relazioni. E la Chiesa è una famiglia, ed esattamente come la famiglia naturale, tu non scegli quale figlio avrai. E no, tu non scegli neanche che moglie avrai, perché sai che prendi, ma non sai che cosa ti ritrovi. A me è andata molto bene. Ho preso per poi scoprire che era meglio di quello che ho preso. E migliora ogni giorno. Però tu prendi e non sai quello che ti ritrovi, ma puoi migliorare quello che Dio ti dà. E così anche per la Chiesa. La Chiesa è imperfetta, sapete da quando? Da quando ci sei entrato tu dentro. Chiunque tu sia, chiunque tu sia, nel momento in cui sei stato battezzato e inserito in questa Chiesa è diventata imperfetta. Perché? Perché ci sei tu e prima di te c'era qualcun altro e dopo di te ci sarà qualcun altro con le proprie imperfezioni. E il Signore che cosa dice? Se la Chiesa è imperfetta, cambiala. Se la Chiesa è imperfetta, chiudila. Se la Chiesa è imperfetta, lasciala. Non è un'istruzione che troviamo. C'è una lettera, anzi due, quella dei Corinti, che andatela a leggere, è paradossale. Questa è una Chiesa che sta messa proprio male, ma male, male, male. Cioè, voi dovete immaginare che questi facevano la cena del Signore e si ubriacavano. Cioè, ma ci arrivate voi come concede? È come se noi avessimo la cena del Signore questa mattina e qualcuno in mezzo a noi, al posto di andare a prendere un solo bicchierino, si mettesse in fila ripetutamente fino a ubriacarsi. Fino a ubriacarsi e poi parlare in nuove lingue in maniera spropositata, scandalizzando, un disordine completo, fornicazione, porcherie di ogni genere, incesto, c'era di tutto, idolatria, settarismo, cioè questi non avevano capito nulla. E la lettera più idonea che l'Apostolo Paolo avrebbe potuto scrivere ai Corinti sarebbe stata una cartolina. Non una lettera, una cartolina. Io vi saluto, Chiesa dei Corinti, e vi chiedo di chiudere una volta e per tutte la vostra Chiesa. Non funziona, non ci siamo. E invece che fa l'Apostolo Paolo, guidato da Dio, con tanto amore, con tanta forza, porta istruzione e incoraggiamento, perché Paolo ha capito il ruolo che lui aveva. E tu hai capito il ruolo che hai. Paolo aveva capito che il ruolo che lui aveva per la chiesa locale era perfezionarla nelle possibilità della grazia che gli era data. E nelle possibilità della grazia che ti è data, Dio ti chiede di perfezionare questa chiesa, in modo tale che quando saremo in cielo, lui potrà dirti: cosa hai fatto del tuo tempo? E tu non debba rispondere: sai, ho criticato, ho giudicato, ho voluto chiudere quella chiesa, l'ho voluta distruggere, niente che capiti in mezzo a noi, grazie a Dio. Però purtroppo c'è tanta di questa roba nelle chiese locali ed è opera demoniaca, è l'opera del diavolo, è il diavolo che vuole dividerci, è il diavolo che vuole che le chiese chiudano, è il diavolo che vuole che le chiese si dividano, è opera demoniaca tutto questo, è contrario alla sua volontà. Qual è la sua volontà? Amore. Sapete che di queste istruzioni, le istruzioni che vi ho elencato, ci sono più di 40 istruzioni specifiche con questo avverbio, gli uni nei confronti degli altri, e più di 100, dicevo, e 40 sono amatevi gli uni gli altri. Amatevi gli uni gli altri, 40 volte. 40 volte. Quanto insistente deve essere Dio per farci capire qual è il nostro ruolo all'interno della Chiesa. Amare, sopportare, mi rifaccio al messaggio della scorsa settimana, sopportare ogni cosa, soffrire ogni cosa, avere pazienza, l'amore è paziente, E questo si è chiamato a vivere nella Chiesa. La Chiesa sono relazioni. Fatemi dare una definizione che si può dare alla Chiesa. Chiesa è vivere, è il privilegio, perché è un privilegio essere parte della Chiesa. Io sono così grato a Dio per la Chiesa. Sono così grato a Dio, io e mia moglie, la mia famiglia, per tutti voi. Perché noi siamo edificati nell'appartenenza a questa Chiesa. Noi siamo benedetti nell'appartenenza a questa Chiesa. E la Chiesa significa vivere il privilegio di avere relazioni basate e fondate sulla reciproca volontà di seguire Cristo ogni nuovo giorno. Amen. Sottolineo ogni nuovo giorno, non ogni nuova domenica, ogni nuovo giorno. La Chiesa non è l'azione di pochi a favore di molti. Questo è un concetto religioso, questo è un concetto che ci viene dato dalla religione, dove c'è una manciata di persone che hanno un vestito diverso e hanno un ruolo nettamente diverso a favore dei molti che sono solo folla domenicale. Questo concetto va estirpato, perché il Signore dice che tu sei il sacerdote, sei un sacerdote. Tu sei un popolo scelto, consacrato da Dio. Tu sei parte di un popolo scelto, tu sei regale sacerdozio, tu sei chiamato ad avere una responsabilità all'interno della Chiesa quanto ce l'ho io. Insieme portiamo avanti la responsabilità di edificare la Chiesa. Certo, in ruoli diversi, in misure diverse, con chiamate diverse, siamo membri diversi, diversi nel corpo, ma la responsabilità è condivisa ed è ampliata ed è per tutti. Amen? Dio ci chiama all'azione. Quindi fare Chiesa non è l'azione di pochi a favore di molti, ma piuttosto l'azione di tutti a favore di tutti. Alelon. Gli uni nei confronti degli altri. Quindi Chiesa è reciprocità, Chiesa è scambio. E che responsabilità condividiamo? Noi abbiamo una comune responsabilità, come dicevo, di portare la Chiesa oltre i programmi. E come si porta la Chiesa oltre i programmi? Si porta la Chiesa nelle case. Si porta la Chiesa nelle scuole, si porta la Chiesa nel lavoro, si porta la Chiesa, ascoltatemi bene, io ovviamente questo messaggio lo comunico perché sentivo da parte del Signore che è il giusto approccio all'estate che ci sta dinanzi. Questa è la prima domenica di luglio e quindi devo dire questa cosa, è importante che noi facciamo nostra questa cosa. Fare Chiesa significa portare la Chiesa oltre il programma domenicale, nelle spiagge, nelle uscite, e questo è un periodo di uscite. E allora noi ci frequentiamo, andiamo in spiaggia insieme, ceniamo insieme, la pizza, guardiamo una partita insieme, anche se adesso c'è poco da guardare. Però non apriamo questa parentesi, ma nel nostro vivere tutto questo, perché Dio stabilisce che noi viviamo questo tipo di quotidianità, è data a noi la responsabilità di continuare a fare Chiesa e a non vivere per comparti, perché a volte dividiamo la nostra azione di Chiesa e diciamo questo è il posto giusto per pregare, questo è il posto dove si canta. E questo è il posto dove io posso andare da qualcuno, imporre le mani e pregare per guarigione. E poi usciamo da quelle porte, ci frequentiamo e andiamo a prenderci una pizza e non si fa niente di tutto questo. Ed è un errore. Ed è tua responsabilità e mia responsabilità cambiare questo errore di condotta. Lasciatevi correggere dall'Apostolo Paolo, lasciatevi correggere da me come pastore. Abbiamo davanti un'opportunità straordinaria in quest'estate che ci sta davanti. In spiaggia noi possiamo imporre le mani e pregare. In spiaggia noi possiamo profetizzare. Durante una pizza e una cena noi possiamo parlare parole guidate da Dio. Ci vuole intenzionalità, ci vuole la comprensione che non dividiamo la nostra identità dentro o fuori, non viviamo schizofrenia, ma siamo gli stessi ovunque. E qui sappiamo alzare le mani, cantare, danzare. Dobbiamo danzare nelle strade, dobbiamo danzare nelle spiagge, dobbiamo danzare nelle nostre case e nei nostri incontri. Siete d'accordo con me? E io so che questo amen nasconde tante esperienze così edificanti di cene vissute insieme, di pranzi vissuti insieme, dove non scadiamo nell'essere una comitiva di amici. Questo gli Upside Down lo sanno molto bene. Quante volte vi ho ripetuto come pastore, ricordatevi che non siete una comitiva. Ricordatevi che cosa vi unisce. Perché come figli di credenti ti ritrovi, no, a frequentare la chiesa e a stabilire delle connessioni e delle amicizie. Ma è così opportuno che noi riscattiamo il valore delle amicizie, perché non sono amicizie. Sono connessioni che Dio ha stabilito di familiarità. Passeremo l'eternità insieme. E allora la parola di Dio ci dice, tra le tante istruzioni, incitatevi gli uni gli altri alle opere buone, all'amore. E quindi quando stiamo insieme da amici possiamo vivere la Chiesa. Quindi se la prima responsabilità è portare la Chiesa fuori dai programmi, la seconda responsabilità che abbiamo è di vivere relazioni che non perdono di vista ciò che ci lega. Cos'è che ci lega? Cos'è che ci ha legati? Cos'è che ci ha portati a conoscere gli uni gli altri? Non la pizza, non la spiaggia, non la musica, non l'età. Ci ha portati ad essere uniti e Chiesa, Cristo. È Cristo che ci unisce ed è un impegno e una responsabilità nostra quella di vivere relazioni che non perdono di vista ciò che ci lega, la cosa più importante, la priorità, perché se perdiamo quella rimane solo un'amicizia. E ciò che c'è di peggio è che quel tipo di alleanza e amicizia può essere così corrotta, così simile a quella del mondo, che noi finiamo per essere amici, alleati, che si condividono pranzi e cene per il peggio, ma non per il meglio. Per distruggere, per demolire, non per costruire. E allora ci vuole intenzionalità a pregare prima per della pizza e dire: Signore, in questa serata che spendiamo insieme, Tu sai quanto Ti amiamo. Permetti alle nostre conversazioni di essere di edificazione reciproca e per la crescita e l'avanzamento del Tuo regno, per l'avanzamento della Chiesa. Che questa non sia una serata dove carnalmente sfoghiamo tutti i nostri dissapori, tutte le nostre amarezze, per poi demolire ciò che Tu ci hai dato, ciò che di prezioso ci hai affidato e ciò per cui Tu chiedi a noi una responsabilità. Sei sacerdote, sei pastore di questa Chiesa, sii pastore di questa Chiesa, sii buon amministratore di quello che Dio ti ha affidato. La terza responsabilità è quella di vincere le riserve che ci bloccano dall'interagire con gli altri credenti. Ci sono delle riserve che a volte confinano le nostre relazioni all'interno della Chiesa ad una manciata di persone, ad un gruppo molto ristretto di persone, che sono le stesse persone che sempre frequentiamo, con le quali sempre interagiamo, al punto tale, questa è la cosa più triste, che a volte mi riscontro, che non sappiamo chi fa parte della nostra chiesa locale. E si nomina una persona e qualcuno dice: ma chi è? E non è una persona che viene da poco, da un mese o qualche settimana, è una persona che è lì da anni, che è stata battezzata, inserita nella chiesa locale. È una responsabilità tua e mia interagire con chiunque e conoscere ogni membro della chiesa locale. Certo, non potrai frequentare tutti. Non potrai essere amico con tutti, non potrai vivere pizze con chiunque, ma puoi impegnarti, a partire dalla domenica, a conoscere il maggior numero dei familiari che che il Signore ti ha dato nella chiesa locale dove Lui ti ha stabilito. Non rimanere confinato da barriere che hanno a che fare con la timidezza o l'imbarazzo. Non so chi è, non so perché qui, non so se devo presentarmi, non presentarmi, non so se è in visita tra di noi. No, tu vai e accogli, perché la parola di Dio dice: accoglietevi gli uni gli altri. Non rimanere confinato in un gruppo ristretto di persone, non rimanere confinato in quel gruppo di persone che è più congeniale perché sono coetanei. Ragazzi, questo è un appello a voi, ai giovani della Chiesa. Mi ascoltate? Ci siete? Quanti giovani abbiamo in mezzo a noi? Questa è una domanda che non dovevo fare perché si alzano tutte le mani. Ok, se sei giovane e lo sai, per definizione anagrafica, e perché la tua carta d'identità lo dice, non rimanere tra giovani. Non rimanere confinato tra coloro che sono i tuoi coetanei nella Chiesa. C'è tanta ricchezza nelle persone diversamente giovani della nostra Chiesa. Diversamente giovani che hanno esperienza. Qualche settimana fa, per iniziativa di Clarissa e Anna Romita, si è svolta questa serata, una pizza con le persone diversamente giovani della nostra Chiesa. E siamo stati invitati, e Giorgio, è stato un onore poter essere lì, è stata una ricchezza meravigliosa, perché abbiamo giocato insieme, abbiamo parlato, abbiamo ascoltato le testimonianze chilometriche, enciclopediche, che partivano da Noè e finivano all'Apocalisse. Ma quanta ricchezza! Sapete perché? Perché gli anziani parlano tanto. Non perché non hanno nulla da fare, ma perché hanno tanta ricchezza. E se tu hai solo la pazienza di metterti in ascolto, tu ne uscirai edificato. Da uomini e donne che sono venuti a conversione quando c'era persecuzione per la Chiesa evangelica a Modugno, dove venivano osteggiati dai familiari, dai preti cattolici, cose che adesso non c'è più, ma è parte della storia, e loro hanno radicalmente scelto per Cristo, e noi oggi abbiamo una Chiesa perché uomini e donne anziane hanno creduto in Cristo Gesù, quando non è stato facile credere in Cristo Gesù, e dove venivano additati in un paesino quale era Modugno, dove tutti conoscevano tutti. E allora conoscere queste storie, conoscere queste persone, conoscere queste esperienze è di fondamentale importanza. Giovani, andate le persone anziane, presentatevi a loro, pregate con loro e per loro, chiedete a loro istruzioni, chiedete a loro insegnamento, perché hanno tanto da dare. Quindi prendi la responsabilità di combattere e abbattere le barriere che bloccano te dall'interagire con tutta la famiglia locale che il Signore ti ha dato. Amen? È un impegno che vogliamo prendere? È un impegno che vogliamo prendere. È un impegno che vogliamo prendere. No, ma tutti, è un impegno che volete prendere. Perché se stai dicendo sì, lo stai dicendo nella Chiesa. Prendi questo impegno. Prendi questo impegno. Vai oltre la tua timidezza. Vai oltre. Lo stesso vale per gli anziani che vanno ai giovani. Conosci Sharon, che ha cantato qui questa mattina? Conosci Lautaro, che era qui? Oh, se canta in chiesa, è membro. Vai, conosci, c'è ricchezza, più in Sharon che in Lautaro, ma c'è ricchezza comunque, scherzo. C'è ricchezza in ognuno. Puoi girarti alla persona che ti sta a fianco e dirgli: c'è ricchezza in te, lo riconosco, c'è ricchezza in te. Siamo ricchi. Siamo ricchi. Siamo ricchi. E questa Chiesa è chiamata ad andare di gloria in gloria, amen? E non è l'azione di pochi a favore di molti, è l'azione di tutti che determinerà questo passaggio di gloria in gloria, amen? Noi andremo e cresceremo ad essere più simili a Cristo, ad amare come Cristo. Noi quest'estate la riscattiamo per essere un tempo propenso per connettere, fare relazione ed edificare, amen? Per pregare e profetizzare, per servire e portare carichi gli uni degli altri. Come lo facciamo? Quarto e ultimo punto, prendendo responsabilità nell'avere un linguaggio che è sottomesso alla parola di Dio. Ascoltate questi versi. Giacomo 4:11. Non sparlate gli uni degli altri. Alelon. Alelon non sparlate. Responsabilità comune, non sparlate. Io non devo neanche chiedere di alzare la mano a quanti si sono trovati in conversazioni, in quelle famose cene o pranzi, in quelle uscite, dove si è sparlato. E non voglio neanche alzare la mano nel chiedere a chi confessa di aver parlato a sproposito della Chiesa o di qualche credente, della leadership di Chiesa o delle decisioni, dell'andamento di Chiesa. Perché credo che se siamo onesti, tutti abbiamo vissuto questo. La nostra lingua, l'Apostolo Giacomo dice che è un membro del nostro corpo così difficile da gestire, da domare. Se sai che hai sparlato, non sei diverso. Lo facciamo tutti. Però siamo in un processo di perfezionamento dove noi scegliamo di confessare i nostri peccati, di ravvederci e di fare meglio. Essere simili a Cristo significa anche adottare il linguaggio di Cristo. E Cristo ama la Chiesa, Cristo ama la sua sposa. E quindi la corregge, la riprende, 1 e 2 Corinzi. Ma offre grazia, benedice. Cristo è morto per la Chiesa. Lui ci ha tanto amato, che è morto non quando eravamo perfetti, anzi. Il suo amore si è dimostrato proprio in questo, che quando noi eravamo ancora nei nostri peccati, Lui è morto per noi. Lui è morto non perché abbiamo dimostrato di essere migliori. Lui è morto perché ha dimostrato di essere Lui il migliore. E ha amato ciò che non era amabile. E ti ama nella tua imperfezione. Però ti ama a tal punto che non vuole che tu rimani in quel territorio confinato e carnale, che non ti permette di vivere delle sue benedizioni, della sua gioia. E tu ti stai privando di gioia se la tua lingua non è guidata da Dio. Nel tuo far guidare la tua bocca da Dio c'è tanta gioia, c'è tanta benedizione per te e per chi è attorno a te. Vuoi un matrimonio migliore? Benedici, ringrazia, parla bene. Di ti amo a tua moglie, di ti amo a tuo marito, ripetutamente. Le tue parole cambieranno il tuo matrimonio e lo miglioreranno. Chiudi la bocca per tutte quelle parole che sono offensive, che sono cattive, che hanno come fonte non lo Spirito Santo, ma la tua amarezza, il tuo rancore, le tue cose irrisolte. Efesini, un'altra lettera che l'Apostolo Paolo scrive, capitolo 4, dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Ma se ne avete una buona che edifica, ditela, affinché conferisca grazia a coloro che l'ascoltano. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Interrompi quei discorsi. Interrompi quello sparlare. Interrompi quel mormorio. Non porta da nessuna parte. Anzi, da qualche parte porta. Ma non è niente di buono per te e per chi è con te. Sblocca la tua bocca a un linguaggio profetico. Il linguaggio profetico è di edificazione, di esortazione e di incoraggiamento. Questo è il linguaggio profetico che noi possiamo sbloccare, parlare bene, onorare, stimare, dire cose buone, perché ogni parola buona porta vita e trasforma ciò che c'è intorno a te, anche quando è negativa, anche quando è negativa la condizione in cui ti trovi. Nel parlare bene tu la trasformi e la migliori. Quindi io voglio ripetere le responsabilità che abbiamo: portare la Chiesa oltre i programmi, vivere relazioni che non perdono di vista chi ci lega, chi ci ha legato, vincere le riserve che ci bloccano dall'interagire gli uni con gli altri e avere un linguaggio sottomesso alla parola di Dio. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli, dice Giacomo 4:11. E ancora Giacomo capitolo 5 versetto 9 dice: non lamentatevi gli uni degli altri affinché non siate giudicati. Non lamentatevi, non sparlate, non lamentatevi. Ecco, il giudice è alle porte, il Signore sta per tornare. Ed è Lui che ha il ruolo di giudicare, non noi. Lascialo a Lui questo ruolo, non prendertelo. Romani 14:19 dice: cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione, all'elon edificazione. Gli uni nei confronti degli altri dobbiamo essere fonte di edificazione. Amen? Vogliamo alzarci. Chiudi i tuoi occhi, pensa a quello che il Signore ti chiama responsabilmente a vivere in questa nuova stagione. E io ti assicuro che questo messaggio non è solo per il bene della Chiesa, ma è il bene per te. Fai quello che Dio ti chiede di fare e tu troverai giovamento, troverai benedizione, troverai ricchezza. Ama, accogli, ospita, perdona, prega, caricati dei pesi degli altri, servi, profetizza, edifica. Sarai il primo ad essere edificato e i tuoi pesi saranno caricati da altri. Mentre abbiamo gli occhi chiusi, pensiamo a queste parole. Vorrei pregare per noi. Vorrei benedire la vita di ognuno di noi in Cristo Gesù, nella pace e nell'amore. Forse sei qui e vivi turbamento. Forse sei qui e hai dei bagagli anche proprio di amarezza. Forse sei qui e non sei sereno. Il Signore ti dice: questo vuole essere un luogo di pace. Lascia a me il peso. Lascia a me il carico, lascia a me l'amarezza, lascia a me ogni cosa che ti turba. Voglio prenderla io, voglio darti pace. Il Signore ti ha chiamato a far parte di questa chiesa o della tua chiesa di appartenenza se sei qui in visita. Mi stai seguendo online, stai ascoltando questo messaggio da altre parti. Il Signore ti ha dato una famiglia e ti ha ritenuto idoneo per quella famiglia, per dare il tuo contributo di edificazione, per avere un ruolo di amare e perfezionare il contesto nel quale il Signore ti ha inserito. Sii membro di chiesa, non essere ospite. Sii parte integrante, non solo la domenica. Vivi la chiesa, da domenica a domenica. Cerca, interagisci, relazionati, ama, sopporta, incoraggia. Padre, io prego per ognuno di noi. Che onore che ci dai, Signore Gesù, di essere chiamati regale sacerdozio, gente santa, un popolo che tu ti sei acquistato. Che onore che ci dai, Padre, di poter assimilare il tuo carattere, la tua condotta di vita. Che onore che noi abbiamo di poter edificare la Chiesa, ciò che tu hai scelto di edificare. Che onore abbiamo, Padre, di portare benedizione, esortazione, incoraggiamento ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, alle relazioni che ci hai dato attorno a noi. Noi vogliamo viverlo appieno, Signore Gesù. Io prego per la Chiesa Pieno Vangelo qui a Modugno. Io prego che per grazia tua noi possiamo crescere e andare di gloria in gloria, crescere nella nostra attitudine, non essere più bambini e immaturi, ma maturi, crescere nella responsabilità che ci affidi, membri gli uni degli altri. E voglio benedire le chiese locali di tutta l'Italia, Signore Gesù. Noi preghiamo per la nostra nazione. Noi vediamo l'opera rovinosa in atto, dove il diavolo vuole dividere, spaccare, distruggere ciò che tu hai stabilito invece quali comunità per l'edificazione, la salvezza, la guarigione. Preghiamo il tuo intervento, Spirito Santo. Che chiese sane, forti, piene d'amore possano crescere in ogni parte di questa nazione e impattare la società che ci circonda. E vogliamo prendere il ruolo che tu ci affidi individualmente, perché ognuno di noi ha una responsabilità. È nel nostro piccolo, che poi è anche molto grande, vogliamo fare tutto ciò che tu ci dici. E questa è una preghiera di arresa a te, alla tua volontà. Sia fatta la tua volontà attraverso ciascuno di noi. Amen. Amen. Vogliamo continuare a pregare. Vogliamo cercare un fratello, una sorella da benedire proprio ora. Vai da qualcuno, prega, lasciati guidare dallo Spirito Santo. Forse c'è una parola che proprio il Signore vuole darti per qualcuno che conosci molto bene, ma spero ancora di più qualcuno che conosci poco, però che sai che è parte di questa Chiesa. Vogliamo cercarci, pregare gli uni per gli altri, benedirci reciprocamente, benedire la nostra Chiesa. Quindi prendiamoci del tempo per pregare. Facciamo l'ora.